siamo felici, noi siamo felici. Amici, amici, non badate a noi, perché non capirete mai, no, non capirete mai, che così noi siamo felici, noi siamo felici. Guardate dove camminate, in un mondo diverso, ai ai ai ai, voi dite di no. Momentite con voi stessi, venite con noi per sempre. Amici, amici, tanto il mondo è nostro ormai, venite con noi, perché noi siamo felici, noi siamo felici. Amici, non portateci rancore, tanto il mondo è nostro ormai, venite con noi, perché noi siamo felici, noi siamo felici. Noi siamo felici, noi siamo felici, noi siamo felici, noi siamo felici.